Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, 800 24 00 24. Parliamo del congresso del Popolo della Libertà, che secondo me è il primo e l'ultimo congresso di questo partito, perché io non li vedo fra tre anni con le elezioni politiche alle porte, il Quirinale alle porte, posto che tutto nel frattempo vada bene, si esca dalla crisi. Non li vedo lì tutti i delegati, la discussione, cosa dice l'amico Fini, eccetera. No, io non la vedo una procedura politica tradizionale. È sembrata una grande cerimonia di glorificazione del capo, che peraltro, insomma, diciamo, se lo merita, ecco, secondo la misura dell'umana possibilità. Effettivamente la parabola di Berlusconi ha qualcosa di, virgolette, eroico, chiuse le virgolette, qualcosa comunque di estremamente spettacolare. Però al di là di questo, la novità vera è che appunto è nato un partito che in certi momenti, cioè quando parlava Fini, sembrava un partito politico, e in certi altri momenti, quando parlava Berlusconi, sembrava invece la riproduzione, la proiezione verso il futuro di questa strana diciamo raccolta di missionari della libertà, cioè un partito non partito, un partito del leader che non vuole abituarsi alle abitudini della vecchia nomenclatura, discutere i problemi, tagliarli in un modo o nell'altro, razionalizzarli secondo le diverse tradizioni politiche. C'è la laicità, c'è la tradizione cattolica del paese per il testamento biologico, oppure c'è una cultura di riformismo costituzionale, ce n'è un'altra per quello che riguarda i cambiamenti nella carta, eccetera, eccetera, eccetera. No, il partito, quando parlava Berlusconi, si sentiva che il partito era sempre il vecchio partito, la vecchia Forza Italia originaria, cioè il partito dell'improvvisazione talentuosa, dell'ideologia, del credo, dei valori, dell'anticomunismo, eccetera. E invece, tagliente, beh, sentiamoli un momento, va. Sentiamo prima, diciamo, il vecchio modello, vecchio modello che forse ha per sé il futuro, cioè quello di Berlusconi, e poi il modello invece oratorio e politico di Fini, che è il tentativo di stare dentro il Popolo della Libertà come se fosse un partito. Sentiamo prima Berlusconi. Proprio in questi momenti l'esperienza recente ci ha dimostrato che nell'azione di governo il ruolo del Premier resta fondamentale e deve avere maggiori poteri rispetto a quelli attuali, che di fatto sono inesistenti. I poteri che la Costituzione assegna al Presidente sono dei poteri quasi inesistenti. Una bandiera dietro la quale ogni vero leader chiama a raccolta il suo popolo. Sarebbe bello che anche il leader dell'opposizione, se esistesse un leader, facesse altrettanto. Sapremo uscire da questa crisi. Ne usciremo bene e non lasceremo indietro nessuno. Ecco, si sentivano i grandi applausi, le ovazioni, la voce del capo, la bandiera, insomma. C'era un riferimento alla politica, sì, devo dire, gli è scappato. Però, insomma, era tutta un'altra cosa. Sentiamo Fini, invece, ecco. Se vogliamo evitare che in modo ricorrente la polemica esca ed esca dalle pagine dei giornali, abbiamo un'unica strada: porre quanto prima in Parlamento la discussione della forma di governo e della forma di Stato e rilanciare come Popolo delle Libertà una grande stagione costituente. Non bolliamo né come fughe in avanti, né tantomeno come strizzatine d'occhio alla sinistra a certe posizioni, perché se c'è un'autentica sciocchezza è proprio quella di pensare che soltanto la sinistra si possa e si debba occupare del rapporto con lo straniero, del rapporto con l'integrazione, del rapporto con quelle comunità che vengono qui per discutere di quello che in qualche modo è anche il nostro futuro. Badate, non c'è alcuna contraddizione, o almeno io non la vedo, tra difendere, come abbiamo fatto in Europa, la identità europea, riconoscendo nelle radici cristiane la matrice di quell'identità, e poi chiedere che le istituzioni siano laiche. Non c'è contraddizione. E allora, in cauda venenum, siamo proprio sicuri, amici del Popolo delle Libertà, che il testamento biologico approvato al Senato sia per davvero laicità perché quando si impone per legge un precetto si è più vicini ad una concezione da Stato etico che da Stato laico. Ecco, Brusco ha posto una questione senza ovviamente per adesso ottenere risposta. Credo che la storia del testamento biologico sia rinviata tra l'altro all'autunno nel calendario parlamentare, quindi è una di quelle classiche leggi, diciamo, che così sono un po' come i fuochi fatui. Va bene, apertura di borsa e poi cominciamo la nostra discussione con un grande parterre, un parterre del ruolo di osservatori politici: Maria Teresa Meli del Corriere della Sera, Stefano Folli del Sole 24 Ore, Augusto Minzolini della Stampa e Stefano Cappellini del Riformista. Allora, Minzolini, buongiorno. Buongiorno, ciao. Volevo sapere questo da Minzolini, perché forse è quello che più di tutti può dare una risposta da insider, da persone che veramente conosce per pratica quotidiana i segreti di quel palazzo lì. Allora, la posso dire seccamente. Previsione numero uno. Fini scava dentro questo partito, il suo blocco sociale, uno spazio progressivamente sempre maggiore. E forte della sua età, del suo ruolo istituzionale, del suo linguaggio politico, della sua cultura politica, eccetera, eccetera, porta questo partito, questo blocco sociale ad assimilarsi sempre di più, diciamo, alla tradizione politica della Repubblica, di questa seconda Repubblica in formazione, e alla fine si garantisce una successione, diciamo, che normalizza, politicizzandolo in senso tradizionale, il percorso ideato da Berlusconi, che nel frattempo va al Quirinale, non so cosa farà, eccetera. Previsione numero due. I due sono incompatibili, perché non si può pretendere di usare un linguaggio, appunto, politico, di nomenclatura tradizionale in un partito di Berlusconi, che è invece carismatico, festoso, cerimoniale, e dove quello che decide è il pragmatismo, appunto, decisionista del capo. Quindi i due sono incompatibili e quindi seconda previsione, seconda possibilità, si andrà a un confronto ravvicinato e uno dei due si mangerà l'altro, in questo caso presumibilmente Berlusconi che si mangerà Fini. Lei che pensa? Guarda, io penso una cosa, cioè ho sentito con attenzione, diciamo, quello che hai detto prima, però tante volte ho visto Berlusconi che, si prevedeva per Berlusconi un certo tragitto, molto spesso si è detto anche in passato che aveva perso la sua forza propulsiva e altro, invece questa cosa non è avvenuta. Ma io andrei oltre la figura di Berlusconi, secondo me Berlusconi sta interpretando anche un cambiamento proprio della logica di un partito, cioè non è detto che bisogna tornare ai partiti tradizionali, è possibile che Forza Italia però Minzolini, Fini è chiaramente, diciamo, una presenza tradizionale, no? No, io sono chiaramente d'accordo, però di verrà accettato come risorsa, ricchezza, come dissenso istituzionalizzato, oppure porrà un problema serio, insomma bisognerà fare i conti secondo me, guarda, alla fine diventerà un dissenso istituzionalizzato. Ti spiego anche il perché, sì. Perché nel senso lui, per trovare un'identità diversa all'interno di quel partito, ha preso delle posizioni che però non sono nel baricentro di quel partito, indipendentemente da Berlusconi, certo. E soprattutto non interpreta il baricentro di questa coalizione. Vediamo se su questo giudizio, che è molto chiaro, per esempio Stefano Cappellini del Riformista è d'accordo. Non tanto. Io penso che la strategia di Fini sia molto lucida. Cioè Fini ha cambiato molto, non solo delle opinioni politiche, ma anche del modo di rapportarsi con Berlusconi. Io credo che per anni Fini sia stato tentato dall'idea di una successione morbida, confidasse nel fatto che Berlusconi prima o poi lo avrebbe esplicitamente indicato come suo successore, alla luce di motivi che non è nemmeno necessario spiegare. A un certo punto, questo qualche anno fa, Fini si è reso conto che questo non sarebbe mai accaduto, ma anche perché è contrario, diciamo, al modo di vedere le cose, il mondo di Berlusconi, e ha cambiato. Niente è più estraneo a Berlusconi dell'idea di una successione a lui stesso. Fini lo ha capito che non c'era alcun margine e ha preso le contromisure necessarie da tutti i punti di vista, sia da un punto di vista, appunto, di patrimonio di idee, di proposte, quindi di posizionamento politico, ma anche di modo di rapportarsi con Berlusconi. Da quel momento in poi non gliene ha fatta passare più una. Quindi secondo Cappellini non sarà un dissenso istituzionalizzato, sarà una vera lotta politica strategica. Con una particolarità, Fini comunque è persona molto avveduta, è in politica nei partiti da 40 anni, cioè Fini non sfiderà mai Berlusconi, cioè il PDL non sarà mai un partito in cui assisteremo a un congresso con uno scontro per la segreteria Fini-Berlusconi, Fini non arriverà mai a questo punto, però sa che l'unico modo in cui può realisticamente ambire alla successione è quello di posizionarsi, dimostrare che è l'unico ad avere la popolarità, il carisma, il patrimonio di idee per governare un partito il giorno in cui Berlusconi deciderà di fare altro, certo, che sia il Quirinale o che sia semplicemente il godersi la vita privata. E in questo senso io credo che la sua sia una posizione intelligente. Da tempo si dice che molti amici di Fini ripetono una frase che Fini stesso appunto negli ultimi anni ha reso un po' il suo motto. Una frase segreta? Frase di cui si è anche scritto, no? Quella secondo cui Fini ripete a tutti il destino dei delfini è quello di rimanere spiaggiati. Mm-hmm. E in effetti lui ha capito che il delfino di Berlusconi, fare il delfino non lo avrebbe portato da nessuna parte e finisce ne ha preso a secco. E Folli cosa pensa di questo dualismo Fini-Berlusconi, che è la cosa più interessante che è emersa da questi tre giorni? Sì, aggiungo una cosa a quello che dice Cappellini. Nel momento in cui Fini evidentemente smette di porsi come delfino, per le ragioni dette benissimo, c'è una questione. Questa legislatura deve essere la legislatura che riesce ad ammodernare le istituzioni, no? Questa è la missione. Se manca questa missione, viene meno tutta quella catena per cui il partito di Berlusconi è un partito di successo, fin tanto che ha successo Berlusconi come presidente del Consiglio, come capo di un governo. C'è un nesso diretto tra questo. Per riuscire in questa missione e mantenere questo vasto consenso, eccetera, Berlusconi deve essere l'uomo che riesce a rinnovare lo Stato. Come lo rinnova? E Fini gli ha posto tutta una serie di questioni molto profonde di natura istituzionale, che vanno dalla stagione costituente alla necessità di immaginare qualcosa che non sia soltanto diamo più potere al Premier, ma sia diamoglieli dentro un contesto di pesi e contrappesi, certo, controlli democratici. Insomma, è un discorso che fa di Fini il punto di riferimento di un vasto establishment, mm-hmm, che ha un'idea della riforma della Costituzione, se vogliamo più tradizionale, certamente più articolata, mentre Berlusconi è l'uomo del fare, diciamo, anche in questo caso. Quindi questo pone una dinamica molto precisa. Fini si mette di traverso rispetto a un'idea di ammodernamento dello Stato e delle istituzioni che Berlusconi propugna, ma che è totalmente diversa da questo percorso che coinvolge l'opposizione. Beh, per esempio, eccetera, eccetera. Per esempio, chiedo scusa, Maria Teresa Medici, ci sarà sicuramente uno scontro sulla questione del rapporto con l'opposizione, adesso poi vedremo, perché Berlusconi ha detto si fa comunque. Si fa comunque, e Fini ha detto no, lo facciamo concordando, sì, con l'opposizione, che è una cosa ben diversa. Meli. Peccato che però l'opposizione non voglia concordare nulla. Nulla, sì. Mi pare che sia abbastanza chiaro, insomma, la posizione del PD, che dell'ultimo Veltroni e poi di questo Franceschini, è una posizione di assoluta chiusura a qualsiasi confronto, e che quindi anche un problema per l'opposizione, perché relega poi l'opposizione a non aver ruolo, a non incidere. Infatti dice oggi giustamente Panebianco sul mio giornale, alla fine la dialettica è fra Bossi, Fini e Berlusconi, perché l'opposizione non c'è proprio perché dice di no. Però questo ne parleremo dopo, quello che mi interesserebbe capire adesso è questo, a occhio e croce, Fini sarà un dissenso istituzionalizzato e poi alla fine si perderà anche l'effetto novità e sarà, vabbè, il Presidente della Camera dice la sua, esorta alla prudenza, al protocollo, alle buone maniere, eccetera, eccetera. E intanto Berlusconi fa la sua cavalcata nel modo solito, more solito. Oppure nasce una cosa nuova, anche nel bene, non solo nel male, non solo nel senso della divisione, del tirarsi i pesci in faccia, no, nel bene. Cioè, dentro l'universo fantasmagorico berlusconiano, in questa parabola di glorificazione, insomma, della persona, del capo, della leadership e di alcuni valori che le sono collegate, entra, perché adesso Fini non è più il capo di un partito esterno, sta nel partito di Berlusconi, in casa sua, se l'è messo in casa, diciamo così, entra, insomma, il ragionare politico interpretato da un pezzo da 90 come Fini. Ecco, lei cosa dice, Meli? Io trovo che comunque la posizione di Fini è una posizione minoritaria all'interno del PDL, all'interno della stessa AN che è il partito di provenienza di Fini, quindi credo che alla lunga sarà un dissenso istituzionalizzato, che è bene che ci sia perché fa parte della dialettica, e che in realtà non sarà, diciamo, non sarà un dissenso lacerante, ecco, per il PDL. Non sarà un dissenso lacerante, ma istituzionalizzato, e tutto verrà affidato, diciamo, alla, così, anche un po' all'improvvisazione, al rapporto con gli eventi. Comunque il cambiamento c'è stato, non è più la vecchia Forza Italia. Minzolini. Certo, non è più la vecchia Forza Italia. Cioè, io infatti da questo punto di vista... Ma dov'è il cambiamento? Perché vabbè, a parte gli inni, dov'è il punto del cambiamento? Perché ecco, io il cambiamento che vedo è che c'è dentro Fini. Vedi Fini, però se tu, non so, io ho ascoltato, ti posso dire, un Formigoni che era estremamente duro nei confronti della Lega. Sì. Ho ascoltato un Brunetta che, ti ho detto, su alcuni temi è andato abbastanza pesante. Io quello che penso è che noi continuiamo a vederlo soltanto perché c'è questa figura del capo che è così dominante, come un partito diverso. Penso che sia un partito invece che piano piano, cioè, emerge, cioè un dibattito di questo tipo, francamente, io nel PD, nell'ultimo PD, non l'ho trovato, nel senso, la cosa che mi colpisce è che mentre questo è un dibattito che è all'interno di questa società, che è diversa e che probabilmente è rappresentata da un partito diverso, nel PD abbiamo un dibattito politico che però non rappresenta più quella società, e questo è il dramma. Lì la leggi in quel dibattito la società italiana, nel PD non riesce a leggerla. Questo è un giudizio interessante, Cappellini, è vero? Cioè che loro comunque, no, per esempio Scalfari ha detto, questo è un blocco sociale articolato, le partite IVA, le piccole imprese, e poi c'è questo grande cartello elettorale frastagliato che rappresenta veramente... Cioè, tutti riconoscono il fatto che Berlusconi è un uomo della società, insomma, no? Sì, sì, no, ecco, questo è indiscutibile. Ecco, ma si riflette questa complessità della società italiana nel suo congresso più di quanto non si rifletta nei congressi del PD, nel modo di discutere del PD? Com'è la cosa? No, io credo che da questo punto di vista sia deficitario il bilancio di entrambi i partiti. Io credo che tutti e due fanno fatica, per motivi diversi però, a essere pienamente rappresentativi delle dinamiche della società italiana. Io penso comunque che il PDL sia una cosa molto diversa da Forza Italia, e secondo me l'atto fondativo, il momento in cui si fonda questa differenza è proprio il passaggio in cui Fini dice «so di essere in minoranza». Apparentemente una diminuzio, ma in realtà è il momento in cui si fonda un partito che è completamente diverso da Forza Italia, dove era inconcepibile che qualcuno dicesse sono in minoranza. Cioè quello è un atto, un passaggio a suo modo storico, e soprattutto è il modo con cui Fini ha detto questa è casa mia e lo sarà anche in futuro. Oggi sono minoranza, qualsiasi minoranza si costituisce con uno scopo chiaro, quando non è mera testimonianza, diventare un giorno maggioranza. Fini non lo farà, quello, sì. Fini non lo farà costruendo una corrente, perché le correnti c'erano, qui non siamo davanti alla nascita di una corrente, in Forza Italia c'erano le correnti, ma erano correnti di provenienza, di cordate di potere. Fini non è stupido, non farà mai una corrente dentro Forza Italia per il motivo che dicevamo prima, perché lo scontro con Berlusconi non si risolverà mai in una conta congressuale. Però in quel momento lui fonda un partito che è completamente diverso da Forza Italia. Non so, anche per venire all'altro lato del discorso, cioè quanto il PDL sia pienamente rappresentativo, non so se questa dinamica Fini-Berlusconi davvero rappresenti uno specchio di ciò che sta accadendo in Italia, del rapporto con tutti i ceti, non solo quelli produttivi o comunque il blocco sociale storico del centrodestra. Però non c'è dubbio che è qualcosa di molto interessante, e penso che da questo punto di vista darà degli esiti forse imprevisti nel momento in cui Berlusconi annunciò, no, sul famoso predellino, la nascita di questo partito. Certo. Bene, adesso dobbiamo dare la pubblicità e riprendiamo tra poco, direi puntando anche a capire quali sono le conseguenze sulla sinistra, non solo sul PD, ma sulla cultura di sinistra, perché il fatto che Gianfranco Fini adesso sia diventato il testimonial al quale tutti tirano la giacchetta, perché dice, ah ecco, Fini sì, non Berlusconi che parla sempre male dei comunisti, che ripete vecchi slogan, che è arrogante, autoritario, troppo ricco, antipatico, cioè Berlusconi è l'uomo nero. Ah ecco, adesso c'è Fini che crea un nuovo spazio, una nuova aria. Questo è un fatto nuovo anche per la sinistra, per gli intellettuali, per la cultura di sinistra, per i militanti, cioè, la gente che si sono costretto ad amare Fini, è una cosa terribile. Eccoci qua, 800 24 00 24. C'è un po' di crisi del call center perché sono cadute un po' di linee. Vorrei sentire Ugo da Roma, l'ultima telefonata superstite nella mia schedatura. Ugo. Sì, buongiorno. Dottor Ferrara, per me è un onore parlare oggi con lei. Per me è più che un onore, un piacere. È un grande. Scusi se sono un po' emozionato. Mi dica. Sono uno dei primi fondatori di Forza Italia. Accidenti. Non proprio scritto come tutti gli altri, Faichi, Schettini e Pepa, a quei tempi Spingardi. Non ho scritto niente, però sono stato uno dei fondatori. In poche parole, ho la tessera 1400 del 25 marzo 94. Benissimo. Quindi adesso questa tessera dovrò fare un quadro, no? Certo, e metterla certo. Nello studio. Certo. Comunque volevo dirle questo. Il Cavaliere non ha mai sbagliato una mossa, mai. Come si parla quando si gioca a carta, no? Però potrebbe sbagliare in futuro, anche quello. No, escluso, no, no, no, no, no. Guardi, uomini come il Cavaliere nascono pochi. Guardi, mi creda, io lo conosco... A sinistra dicono per fortuna. L'ho conosciuto personalmente in un teatro di Roma. Io ero responsabile, lui è venuto. Guardi, mi creda, io mi sono alzato, l'ho salutato, lui si è alzato, mi ha dato la mano e ha detto venga a trovarmi quando vuole. Vabbè, poi non l'ho più visto personalmente, l'ho incontrato nei vari comizi. Le posso dire questo, il Cavaliere ogni sondaggio che fa è azzeccato. Perché lo fa, non so chi è i suoi collaboratori. Però cambiano, i sondaggisti del Cavaliere cambiano. Cambiano? Con una certa frequenza. Le posso dire che in Sardegna le avevo azzeccato anch'io il 10%, mi scusi. Perché, sì. Dice lei? Perché ero uno di quelli che avevano le famose azioni del Tiscali. A 150 euro mi è arrivato a 0,25 centesimi. Beh, certo, comunque, questa non è una buona fish d'entrée per un imprenditore che fa politica, impoverire i suoi. La ringrazio, Ugo. Adesso non esageriamo, se no ci dicono che facciamo del culto della personalità. Via. Berlusconi può anche sbagliare, forse può anche aver sbagliato qualche volta nel passato. Certo, è un'ipotesi remota, ma dobbiamo contemplarla. Comunque, Ugo, con cordialità la saluto e la ringrazio. Massimo dalla provincia di Verona. Niente, è saltato. Davide da Como. Sì, pronto? Ma che c'ha la Telecom oggi? Pronto? Sì. Sì, Davide, ecco. Caro, sì. Ecco. Mi sentite? Certo. Ok. No, io volevo fare un intervento per quanto riguarda il congresso del PDL. Io ho visto ieri sera su internet, sulle testate dei giornali, che c'è stata un po' una sfilettata da parte di Berlusconi alla Lega. Io dico che secondo me il nocciolo della questione è appunto le alleanze, perché la Lega sta aumentando consensi ovunque, nelle quattro regioni più grandi del nord e anche in Emilia-Romagna ultimamente. Senza la Lega il PDL non va da nessuna parte, diciamocelo chiaramente. Che Berlusconi da solo arrivi al 51, secondo me è improponibile. Bene, questo è interessante. Parleremo anche delle alleanze adesso. Grazie. Mentre cerchiamo di ricostruire la capacità di azione del call center, torniamo in studio. La sinistra ha un nuovo leader, Gianfranco Fini, il che è molto contraddittorio. Maria Teresa Meli, che succederà? Ma la sinistra però mi pare che sia una coazione a ripetere, nel senso che prima era Bossi, poi è stato Casini e adesso Fini, cioè chiunque contrasti in qualche modo dal 94 in poi Berlusconi, quindi diciamo, quella è una caratteristica della sinistra. Certo, questa volta è Fini, cioè un signore che fino a 15 anni fa a sinistra veniva giudicato un fascista, stiamo parlando di 15 anni fa, non di 50 anni fa. Non si può dire che venga da una costola della sinistra. No, lui non si può dire. Mi sembrerebbe un po' troppo. Anche da lei, ma no. Ecco, appunto, no, ma io volevo introdurre Meli e poi passerei a Minzolini, che anche lui è un esperto osservatore, diciamo, subacqueo di tutto questo, la faccenda di D'Alema, perché attenzione, quando ha parlato Fini, mentre Franceschini e gli altri hanno detto vabbè adesso prudenza, non è che ci gettiamo l'abbraccio con Fini per una nuova stagione costituente, rifacciamo la Costituzione con lui, e invece D'Alema ha detto molto interessante, questa è una sfida da raccogliere, e Fini e D'Alema hanno un flirt in corso. Sì, Fini e D'Alema non flirt, nel senso che comunque D'Alema tenta sempre di trovare una sponda dall'altra parte. Non dimentichiamoci che è stato un mesetto fa incontrato in un albergo per ore Giulio Tremonti, cioè un'altra delle facce. In un albergo, adesso cerchiamo di moderare i termini. Nella sala delle conferenze. Si sono incontrati in un albergo per non farsi vedere. Ma ho capito, ma al bar dell'albergo. Al bar dell'albergo, sì. E Minzolini di questo rapporto con D'Alema cosa dice? Ma guarda, io penso una cosa, anche rispetto ai discorsi che abbiamo fatto questa mattina, che Fini è l'interlocutore più... cioè dimostra questo scegliere fini da parte del PD, secondo me, un atteggiamento come al solito pigro e comodo. Nel senso, cioè, che tu punti, è quello che, con cui puoi avere una dialettica più ravvicinata, che probabilmente ti sta più appresso, che probabilmente ti dà anche la possibilità di avere un meccanismo tattico, che è quello di cui parlava prima la Meli, cioè quello di creare un meccanismo, diciamo, di scontro all'interno del PDL. Però, cioè, qual è il punto, secondo me, il limite? È che Fini è quello che rappresenta meno quel mondo. Fini, per avere una sua identità, se posto un po' fuori da quel mondo, come diceva l'ascoltatore, se la coalizione di centrodestra... Le idee di Fini pescano a sinistra, non nel mondo rappresentato da Berlusconi. Io prendo la telefonata dell'ascoltatore precedente sulla Lega. Sì. È evidente che Fini, rispetto a questa coalizione, ma non soltanto al PDL, rispetto a questa coalizione di governo, esterno. Però nel rapporto con D'Alema, Folli, c'è quella che si potrebbe definire un'affinità elettiva, cioè è vero che c'è questo condizionamento tattico per cui a sinistra tutti abbracciano chiunque sia lo spadaccino che diciamo sfida a duello Berlusconi, però bisogna anche dire che mentre con Bossi era chiaramente una cosa un po' surreale, perché Bossi era il nordismo, allora era addirittura la secessione, quindi dire una costola della sinistra era un paradosso, con Fini è un po' diverso, perché Fini c'ha lo stile del politico professionale, cioè del restauratore di una norma, di uno standard, di un modo di affrontare e concepire la politica che Berlusconi invece ha fatto dimenticare con effetti rivoluzionari. Non c'è dubbio. Ha questo stile del politico tradizionale e parla alla società politica, naturalmente, parla degli interlocutori che stanno dall'altra parte. E in più ha questo ruolo istituzionale che non va trascurato, perché sarà anche vero che non appartiene al mondo berlusconiano, a quel mondo che si è espresso in questi giorni nel congresso, eccetera, a quella base sociale, però ha un ruolo istituzionale che è fondamentale in questo momento, perché, come dico, di lì passa tutto, lì deve passare tutto quello che si dovrà far passare se si vuole dare un senso a questa legislatura. Se poi non si vuol dare nessun senso, allora è un altro discorso, ma di passa tutto, per cui è vero che la sostanziale subordinazione di una parte del centro-sinistra a Fini fa un po' sorridere, però forse in questo caso è soprattutto Fini che usa la sinistra, più che la sinistra che usa Fini. Certo. Questa volta è Fini che ha una posizione particolare, no? Che gli permette di... sul crinale, che gli permette di utilizzare a suo vantaggio un certo sentimento e anche un certo disorientamento, frastornamento del centro-sinistra, oltre, diciamo, alle preoccupazioni, inquietudini di un certo establishment istituzionale. Penso per esempio al Quirinale. Per esempio Fini è un uomo che ha un buon rapporto con Napolitano, se l'è costruito, e quindi si crea questa cosa che ha in Fini il punto di riferimento. Ma io non direi che è Fini strumento della sinistra, francamente no. Riprenderei, Cappellini, l'osservazione che mi sembrava molto intelligente, fatta prima da Minzolini, comunque molto stimolante, eccetera. E cioè, Fini, come dice Folli, è, in quanto presidente della Camera, è certamente un pivot della situazione politica attuale, quindi non si può in nessun modo sottovalutare la sua funzione, sia se viene preso a testimonial, quando venga preso a testimonial dalla sinistra, sia nel caso in cui sia lui a usare l'opposizione per far avanzare o no un programma, per esempio, di riforme costituzionali. Quindi è un... Però, diceva Minzolini, dal punto di vista dell'impatto sociale delle idee politiche di un leader, Fini è isolatissimo, cioè lui dice è minoranza della minoranza nel blocco sociale che sostiene il Popolo della Libertà, e sostanzialmente quando parla dell'immigrazione, quando parla del testamento biologico, quando parla anche del metodo, del rapporto, il linguaggio, è un uomo ormai, diciamo, che può parlare solo per l'elettore di sinistra, è così? No, io questo non lo credo, cioè, non c'è dubbio che lui sia in minoranza, ma se l'è detto da solo, lo dicevamo prima. Certo. Questo però non significa che le sue idee siano fuori posto o che lui sia una sorta di novello Follini in attesa di traghettarsi verso altre esperienze politiche. Questo francamente credo che sia una rappresentazione abbastanza folcloristica della posizione di Fini. Cioè, lui è in minoranza, lo sa, sta combattendo una battaglia di idee. Io resto convinto che Fini, nonostante in questo momento sia percepito da una parte del popolo di centrodestra forse come un mezzo eretico, resta comunque di gran lunga il più popolare, il leader più popolare in quel campo. Io faccio molta fatica, siccome penso che ancora conti molto. Su questo, Minzolini cosa dice? Ma io guarda, non lo so, secondo me abbiamo proprio... No, sul fatto che Fini è comunque un leader molto popolare nel centrodestra. Il più popolare di Possiamo dire, sarà molto popolare. Il più popolare di Berlusconi. No, il più popolare dopo Berlusconi. Posso? Sì, prego. Mi ricordo soltanto l'esperienza dell'Elefantino Consegni, cioè io poi su questa popolarità e su questi modo diciamo di misurare la società italiana l'unico riferimento che vorrei avere sono le elezioni. Se poi andiamo a vedere dei sondaggi, allora si va a vedere pure Cappellini, vediamo la presenza di N dentro Forza Italia, quanto diciamo è valutata in questo momento. Cioè lei dice non bisogna sopravvalutare la popolarità di Fini. Ma io non sopravvaluto innanzitutto il ruolo di AN. Io penso che Fini non vedesse l'ora di disfarsi di AN, e questo la dice già lunga. Non è una questione di corrente, insomma, qui non è come nel PD dove in qualche modo contava essersi portato appresso le truppe di S, della Margherita. Fini sta facendo un'operazione diversa. Lui non è entrato nel PDL con l'idea di fare il capo della corrente di AN che gli era rimasta fedele. Lui è entrato con un altro progetto, ovviamente non è detto che questo progetto gli riesca, però insomma starei molto attento a definirlo così, come una sorta di outsider che sta lì in attesa di essere emarginato e magari messo fuori dalla coalizione. Sentiamo Michele da Bergamo. Michele? Buongiorno, complimenti per la trasmissione, complimenti. Grazie. A lei. Niente, io volevo dire due cose veloci, nel senso che secondo me il primo errore Berlusconi l'ha fatto è quello di dare tutta questa visibilità a Fini. Nel senso che le volevo dire che questo sta mancando di riconoscenza, perché se non fosse stato per Berlusconi che l'avesse sdoganato, penso sicuramente che il suo partito non sarebbe lì dov'è adesso. Comunque io parlo da elettore della PDL, secondo me Fini dovrebbe avere molta ma molta riconoscenza nei riguardi di Berlusconi. Per la verità, già nel gennaio del 95, quando Berlusconi parlò a Fiuggi, fu lo stesso Berlusconi il primo a dire, me lo ricordo bene, che lui non aveva sdoganato niente, che questo era un modo di considerare le persone come fossero merci, si sdoganano le merci, non si sdoganano i processi storici, i partiti, le comunità, diciamo, civili. Però sì, beh, è vero, ma infatti la cosa di Fini, forte insieme insidiosa, è come si diceva prima, lo diceva Cappellini, lo diceva anche Folli, che lui non ragiona la sua non è una ribellione alla leadership di Berlusconi, la sua è come dire, la riproposizione che diventa esplosiva perché è nello stesso partito, nella stessa casa di Berlusconi, di una tradizione politica, cioè la politica secondo le sue regole, che Berlusconi invece... Prego. Se posso dire una cosa su questo, non è nemmeno così inedita la passione diciamo di una parte della sinistra per Fini, passione uso un termine ovviamente insomma molto tra virgolette. Ricordo che persino i Girotondi, cioè un movimento certo non sospettabile di simpatie per la destra, quando contestava Berlusconi dal palco Moretti poi diceva ma Fini, uno come Fini che cosa dice? Perché in qualche modo una parte della sinistra ha sempre riconosciuto in Fini il portatore di una grammatica simile alla propria. Fausto da Grosseto. Fausto. Pronto? Sì, sono qui. Sì, da Livorno. Va bene, uguale. Sì, uguale, sì, no, perché in Toscana, anzi dire uguale, no. Da Livorno. No, ci siamo visti per una volta nella campagna elettorale nel 2008, si ricorda? Bene. Dica. Senta, io volevo dire, secondo me è un generale senza truppe, Fini, nel senso, cioè, guardiamo i numeri, io sono abbastanza d'accordo con Minzolini, cioè anche nella stessa alleanza nazionale non è più visto come il leader, io non sottovaluterei futuri leader anche, che ne so, come Gasparri, come Alemanno, cioè Fini chi è che lo rappresenta? Anche nel popolo, anche quando ha fatto il congresso di finale di Alleanza Nazionale c'è stato il gelo su alcuni suoi passaggi, quindi sinceramente non lo vedo come leader futuro. Va bene, questa è un'opinione, devo dare adesso le strade in diretta, grazie Fausto da Livorno e chiedo scusa per lo scambio di provincia. Bene, andiamo verso la conclusione. Abbiamo parlato a lungo del dualismo Fini-Berlusconi, perché effettivamente è stato il tratto saliente di questo congresso. Io cambierei adesso un po' l'orizzonte, anche perché abbiamo cercato disperatamente delle telefonate, però Fini, per fair play, e diciamo, insomma, così, insomma... La tendenza è un po' in questo momento alla glorificazione del vecchio capo del, del centrodestra. Fatemi guardare, c'è Paolo da Palermo, finalmente si è creato unico leader, niente, no, anche lui giù, botte a fini, niente. Vabbè, sentite, io la butterei su un'altra questione. Quella sollevata per esempio da Edmondo Berselli su Repubblica, in parte anche da Angelo Panebianco sul Corriere della Sera. Che posto ha la libertà, il diritto del cittadino individuo? Che posto ha ancora, diciamo, la vecchia cultura meno Stato, più mercato, più individuo, più famiglia, più nel popolo della libertà? Cioè, rispetto alle origini, alla Forza Italia delle origini, questa parola che addirittura entra proprio nel corpo, nel titolo del partito, esprime ancora veramente una vocazione, una cultura, una prospettiva, oppure è un po' diventata esornativa, perché questo è diventato un partito Stato, un partito governo, un partito spesa pubblica, com'è la situazione? Ecco, Meli. A me sembra che, diciamo, la spinta della rivoluzione liberale del primo Berlusconi sia molto affievolita. Adesso effettivamente è un partito diverso, anche lui stesso ne parla, ma già ne parla di meno. Siamo più appunto al partito governo, al partito del fare, quindi mi sembra che in questo senso sia cambiato, ci sia stata una mutazione in questi anni. E dal punto di vista del costume politico, per fare delle osservazioni anche non troppo pesanti, non troppo, diciamo, sotto il profilo strategico, per esempio questa idea di prendere un discorso del 94 e stamparlo su carta pergamena con la tecnica del codice miniato e di leggerlo, sembrava un mago medievale con una sua questa roba da favola così. Ma, insomma, le tecniche di Berlusconi, il jingle musicale, lo stacco tra un intervento e l'altro, quella strana canzone, meno male che Silvio c'è, anche se questa volta data senza le parole, l'abbondanza, tutto questo è solo esornativo, è solo periferico, oppure appartiene poi al cuore della rivoluzione berlusconiana? Minzolini. Ma guarda, questo qui è Berlusconi, diciamo, è come Berlusconi immagina la comunicazione politica, non ne vedo l'elemento centrale. A me quello che c'è stata sicuramente una metamorfosi, ma è stata una metamorfosi più verso, che ti posso dire, il PPE. Io forse sarà una provocazione, però mi ricorda questo partito, mi ricorda un po', per alcuni versi, la Democrazia Cristiana, ma quella di tanto tanto tanto fa. Ed infatti, se tu vai a vedere, quelli che hanno più, diciamo, timore rispetto all'espandersi a questa idea del partito paese, del partito degli italiani, sono proprio gli ex democristiani. Perché tu, anche nei sondaggi, se vai a vedere, adesso io li prendo, diciamo, per buoni, perché poi alla fine sono dimostrati buoni, perché sono gli stessi che hanno, diciamo, negli ultimi tempi previsto i risultati elettorali. Però si passa da un 40-42-45%, tra il 40 e il 45% era la DC degli anni 50, perché interpretava quella società. Quello che noi sottovalutiamo e sottovaluta la sinistra, ma secondo me qualcuno neanche tanto, perché io ho visto, diciamo, delle dichiarazioni della Bindi che sono più attente, è che questo tipo di operazione che sta facendo Berlusconi lo porta ad avere una vasta gamma di rappresentanza rispetto alla società italiana di oggi. Stranamente, poi io torno a dire, c'è una dialettica che tante volte ricordano, tutte le ricorderai quanto me, la dialettica democristiana ad esempio sulle istituzioni cos'era? C'era un gruppo centrale che era proprio il ceppo, che era quella, le correnti, diciamo, dorotee, dicendo che era una posizione dura. Poi avevi la sinistra democristiana, in questo momento interpretata da Fini, che pensava al confronto, però la Democrazia Cristiana era quell'altra. Non quest'altra. Ho capito, Fini come una specie di Demita della nuova Democrazia Cristiana. Ma io ti faccio questo, sì, è una specie di No, ma sono tutte idee. D'altra parte non è che la politica non è una scienza, si sta lì, si descrive, si dicono, no? Paolo da Palermo, pronto. Buongiorno dottor Sadara, Buongiorno. Il mio è un intervento un pochettino molto più semplicistico e più terra terra, nel senso che io penso che il centrodestra ha avuto il coraggio di creare un unico polo che ha da una vita che se ne parla. Come siano le alleanze, io penso che ormai abbiamo finalmente un unico polo del centrodestra, ben chiaro e ben delineato. Poi per quanto riguarda le figure carismatiche o meno che debbano succedersi a Berlusconi, io penso che la meno carismatica figura del centrodestra batterebbe sicuramente qualsiasi personalità più carismatica che possa avere il centro-sinistra, ammesso che ci sia. Mi dispiace, ma purtroppo la realtà è... Secondo lei è una lotta impari, sì. Finiamo con un giudizio sul bipartitismo. L'esito del popolo, del congresso del Popolo della Libertà, la nuova dialettica instaurata da Berlusconi con Fini e con il Paese, tutto questo, perché poi un fatto è successo, non esiste più Alleanza Nazionale Forza Italia, c'è un partito solo al posto di due, anche formalmente è ratificato, era già avvenuto nelle urne, tutto questo porterà a una prospettiva bipartitica? Questa vocazione maggioritaria così chiara di Berlusconi porterà a una vocazione maggioritaria del PD riaffermata, rafforzata, oppure invece lì si rifarà una coalizione di centro-sinistra per battere Berlusconi? Cappellini. No, una coalizione si rifarà e credo anche giustamente, perché non, il punto è non rifare una coalizione come quella del 2006, cioè una coalizione di 14 partiti con uno spettro di posizioni politiche troppo vasto. E il punto è, sarà per il centro-sinistra, per il PD in particolare, trovare il modo di mettere in piedi una coalizione che sappia ritrovare un rapporto con Berlusconi in qualche senso. Il problema è che Veltroni ha fallito nel tentativo di far finta che Berlusconi non ci fosse, no? Il famoso espediente di non nominarlo era in qualche modo far finta che Berlusconi non fosse Berlusconi. Invece, il principale esponente dello schieramento a noi avverso. Folli, sarà bipartitismo o no? Io ci credo poco al bipartitismo, almeno in tempi politicamente prevedibili. Un po' perché c'è la Lega, naturalmente. Finché c'è la Lega credo che non avremo uno sviluppo di quel genere, e anche dall'altra parte insomma ci sono... Però la Lega è problemi. Territorialmente, no? Cioè voglio dire, in Germania c'è il bipartitismo, perché c'è la socialdemocrazia e la CDU che si... Poi però c'è la CDU... Però poi ci sono tante cose, sì, insomma. Direi che per adesso il bipartitismo è oltre il nostro orizzonte. Poi io non credo nemmeno che il Popolo della Libertà sia la nuova Democrazia Cristiana. Per la semplice ragione che la DC non tollerava una personalità fortissima alla sua testa, e mentre questo partito, che è il partito del governo, ha bisogno di una personalità come quella di Berlusconi. Va bene, vi ringrazio molto, ringrazio Maria Teresa Meli, Stefano Folli, Augusto Minzolini, Stefano Cappellini, ringrazio gli ascoltatori che hanno telefonato numerosi con qualche difficoltà in più di comunicazione dal punto di vista tecnico, ringrazio Franca Fossati e Gloria Guerrera in redazione, in regia Alessandro Chiappini e Giorgio Mattei, linea al GR, poi a Gianluca Nicoletti con Melo 2.0. A domani, baci.